Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Massimiliano Mazzotta per presentare il suo documentario Chemical Bros in streaming da lunedì 25 settembre 2023. Ben trovato! Buongiorno, buongiorno Federico e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Che cos'è questa storia? È una storia che inizia in Sardegna, perché io ormai ci vivo da più di 10 anni. Quando ci fu l'inchiesta su Fluor Seed nel 2017, ci ho messo un paio d'anni per poter mettere assieme un po' di documenti e poi iniziare il documentario nel 2019, che è girato in piena pandemia. Siamo riusciti anche a intervistare le persone che fanno parte del documentario senza le mascherine, eccetto un personaggio in Veneto. Quindi poi il documentario si sposta anche in Veneto, perché in una delle interviste un epidemiologo ha iniziato a parlare di PFAS, che sono le sostanze perfluoroalchiliche. Il film è La filiera del fluoro, quindi parte dalla miniera di Sibius per poi andare dove viene scavata la fluorite, non che non ci sia in Sardegna, perché in Sardegna di fluorite ce n'è, ma il passaggio intermedio, la laveria, non è attiva e Fluor Seed prende la fluorite nel district di vicino Sheffield in Gran Bretagna. E poi ci siamo spostati in Veneto. Qual è l'utilizzo che viene fatto nella chimica del fluoro? In questo caso in Veneto ci sono le sostanze perfluoroalchiliche. Come nasce il progetto del documentario? Il documentario nasce proprio per l'esigenza di capire qual è l'utilizzo dell'acido fluoridrico, perché poi è lui il principale attore del film, perché senza l'acido non esistono tutta una serie di cose che noi utilizziamo giornalmente, dalla casa alla macchina, il nucleare per esempio. Il nucleare non esiste se non c'è l'acido fluoridrico, perché l'esafluoruro di uranio, quindi l'uranio impoverito, è fatto da 6 atomi di fluoro e 1 atomo di uranio, come spiegato nel documentario. Quindi mettere i puntini sulle i sulla chimica in generale, che fa parte. Io sono nato nel 72, quindi sono figlio della petrochimica, mi sembrava doveroso mettere dei puntini sulle i su una delle sostanze che è nata negli anni 20 per fare il gas sarin, quindi per armi nucleari. Dal punto di vista medico, cosa hai scoperto? Parlando delle sostanze perfluoroalchiliche, quindi nella zona dove è stato fatto delle analisi partendo dal Po, nelle acque del Po, poi risalendo sono arrivati alla fonte della contaminazione, che era una fabbrica che c'era a Trissino, in provincia di Vicenza, dove si producevano i PFAS, inizialmente nella villa dei Marzotto. All'interno proprio della villa palladiana aveva fatto inizialmente la fabbrica lì. Poi il parroco, vedendo che si bruciavano gli alberi, ha avuto l'idea geniale di spostarlo sopra la più grande falda acquifera che abbiamo in Europa, che è appunto dove c'è un fiume, il Pospola, dove è inquinato e dove scende in tutte le concerie. Sappiamo che quella zona è piena di fabbriche. Dopo vediamo a Colonia Veneta, dove esce il tubo Arca, esce l'acqua nera che viene mescolata con l'Adige, che è un fiume un po' più pulito, e lo chiamano vivificazione, per dare vita al fiume, che è illegale, perché tu stai mescolando il tubo che arrivano tutti gli scarichi di tutte le industrie del Vicentino assieme a un fiume pulito e lo rimandi verso il mare un po' meno inquinato, perché è illegale. E quindi in Veneto le sostanze perfluoroalchiliche sono degli interferenti endocrini. E quindi credo che siamo arrivati a tutti, almeno il medico Isde nel documentario dice che tutti noi abbiamo un po' di sostanze perfluoroalchiliche nel sangue. Io avevo chiesto di voler fare io gli esami del sangue, non è possibile, possono fare gli esami solo chi vive in zona rossa, In Veneto chi vive in zona rossa vuol dire che non può usare l'acqua potabile, né per lavarsi né quantomeno per irrigare i campi. Poi c'è la zona arancio, è un'altra dinamica, inquinate le falde acquifere, e quindi l'acqua il principale attore in questo caso, così come in Sardegna per la laguna di Santa Gilla. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Noi abbiamo una pagina Facebook del film, ma su OpenDVD è disponibile in streaming il film integrale. E ringraziare chi ci ha permesso di poter produrre questo film, che sono Medicina Democratica, Life After Oil, l'Associazione Culturale e Fondazione Sardegna Film Commission, che ci ha sostenuto fin dall'inizio della costruzione del film, e poi tutta la troupe che ci ha aiutato a poter costruire il film. Il documentario Chemical Bros in streaming su OpenDDB Distribuzioni dal Basso da lunedì 25 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento alla regista Massimiliano Mazzotta. Un ringraziamento veloce a tutti quelli che hanno contribuito: Antonio Agus per la fotografia, Davide Manca, Francesco Villa, Giacomo Peruffo, Jacopo Foggin, Marco Piras, Stefano Parisien Toldin, per il voice over Mauro Negri, per le musiche Alberto Vino, Buzza, Federico Leonardi, Giancarlo Burranca, Le Hobby Music, Riccardo Albuzzi e Transalento, per il mix del suono Federico Arosio e per le voci Alessandro Catta, Francesca Buffoni e Giancarlo Burranca, per i testi Cinzia Ghiani e per le fotografie Federico Bevilacqua, Lillino Murtas, Le Mamme Non Pifasse e Massimo Pozza, e anche la Società Umanitaria di Carbonia, in particolare Paolo Serra, che ci hanno fatto i trasferimenti VHS. Con Alessandro Marzullo, regista del film Non credo in niente, al cinema da giovedì 28 settembre 2023, ben trovato. Grazie, buongiorno. Che storia hai raccontato? Io ho fatto un film notturno con cui volevo raccontare un po' lo stato d'animo di una generazione di ragazzi italiani, nello specifico, che vivono a Roma e che si devono confrontare con un po' una somma di quello che è stata la loro vita fino ai 30 anni, che è l'età che hanno i protagonisti. Le cose non sono andate come speravano e quindi devono farci conti. Come viene fuori l'idea? Volevo confrontarmi con questa tematica da tanto tempo e ho deciso di farlo col mio primo lungometraggio, poiché quando io sono arrivato alla soglia dei 30 anni è arrivata la pandemia, che è stata per me un po' una bandierina dalla quale poi andare a ritroso a guardare il periodo storico che ho vissuto io, che hanno vissuto tutti i miei coetanei, e quindi ho deciso che, insomma, dalla pandemia in poi dovevo buttarmi, potevo raccontare appunto questa generazione, perché sono un po' di fine di quel periodo lì, degli scorsi 10 anni. Da post pandemia, a mio avviso, parte una nuova storia del mondo contemporaneo. Posso aggiungere che tanto viene dagli scritti del sociologo Zygmunt Bauman, che ha formalizzato questa teoria della società liquida, che descrive appunto la società contemporanea. E quindi ho messo insieme le due cose e ne ho fatto un film che non credo in niente. Nei tuoi personaggi, su quali elementi ti sei voluto concentrare? Sicuramente sulla realizzazione personale, il confronto con il mondo del lavoro, molto problematico, il fatto che per esempio in Italia è il secondo paese più vecchio del mondo, nel senso di anzianità della popolazione, è molto difficile trovare una posizione non solo a livello di retribuzione, ma proprio socialmente impattante per un ragazzo prima dei 30 anni. Infatti tanti si mantengono tramite lavoretti, spesso a nero, fanno fatica ad ottenere dei contratti, ma anche proprio le posizioni e le mansioni che svolgono, insomma, quindi tutto questo crea una frustrazione loro che si va a riversare sul resto della propria vita, quindi i rapporti personali, di amicizia, le relazioni sentimentali anche, e chiaramente, soprattutto in una coppia, vengono messe a dura prova. Pur non credendo in niente, hanno aspirazioni? Il discorso di non credere in niente è un'affermazione, a mio avviso, che lascia trasparire un certo ottimismo e soprattutto il bisogno di credere in qualcosa. Quindi non credo in niente è una frase che dice sforziamoci di credere in qualcosa, questo perché il mondo è cambiato, il cristianesimo ha perso la centralità nella società contemporanea ed è il momento in cui bisogna reindividuare nuovi valori secondo i quali impostare il proprio percorso di vita. I personaggi, a mio avviso, nel film sono in una fase in cui stanno prendendo coscienza di questo fatto e sono alla ricerca di nuove cose in cui credere. Com'è stato il lavoro con gli interpreti? Molto stimolante, perché io mi sono ispirato moltissimo a loro per creare i personaggi, infatti ho scelto dei ragazzi che riuscissero a comprendere quella che era la tematica del film e la sentissero propria, per cui ogni attore mi sono rivolto con una posizione di ascolto, quindi capire quello che per loro era questo film e cercare di tirar fuori le cose più scomode di questo argomento. E gli ho permesso di sperimentare anche a livello attoriale, cercando di dare più spazio possibile alle loro interpretazioni. Il film molto spesso sul set si fanno in funzione dei punti di luce della macchina da presa. Io qua ho lavorato al contrario, nel senso che sul set prima facevo fare la scena a loro, quindi con i movimenti, gli spazi, le intenzioni che loro sentivano di dover tirare fuori in quella scena, e poi ho deciso come riprenderla, ecco. Che scelta distributiva hai fatto e in quante sale sarà? Il film è una produzione indipendente per davvero, nel senso che non abbiamo ricevuto fondi pubblici, non ci sono partner come broadcaster o televisioni. Il film è stato prodotto da un gruppo di piccoli finanziatori che hanno creduto nel mio lavoro. Per questo motivo, anche con la distribuzione, abbiamo deciso di distribuirlo da soli, cioè Daytona, la piccola casa di produzione che ha prodotto il film insieme a Flickmates, che è la mia società, e abbiamo deciso quindi di proseguire il percorso distribuendolo da soli tramite una distribuzione tour a tappe. Quindi il film non esce in contemporanea in tutta Italia, in tutte le sale, ma nel corso di un paio di mesi andrà a tappe in giro per l'Italia e noi lo accompagneremo presentando il film di volta in volta con la mia presenza e quella degli attori. Possibile tra l'altro acquistare delle prevendite sul nostro sito noncredoniente.com e continueremo con questa distribuzione che è anche un po' sperimentale. Il film Non credo in niente al cinema da giovedì 28 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Alessandro Marzullo. A presto! Ciao, grazie a tutti, ci vediamo al cinema. Il regista Carlo Bakschmid sul suo documentario La Scelta, in streaming su OpenDDB e ZalaView da lunedì 18 settembre 2023. Ben trovato. Grazie, ben trovati a tutti. Ciao a tutti. Che racconto è il tuo? È un racconto da una parte che si sviluppa negli ultimi 10 anni della lotta notava in Val di Susa e dall'altra anche pone la questione sul senso della militanza politica di persone che hanno fatto una scelta di vita all'interno del contesto valsusino. Questo emerge con forza e dunque è una questione che riguarda non solo la Val di Susa, non solo la lotta notava, ma secondo noi riguarda tutte le lotte di movimento. E dunque speriamo che sia un racconto che apra la discussione su cosa voglia dire oggi essere militanti. Come nasce tutto? Noi siamo 3 genovesi che hanno vissuto non solo il G8 di Genova, ma anche seguito i processi. Io sono stato consulente tecnico per gli avvocati della difesa e dunque avevamo un'esperienza molto forte alle spalle e al decennale che cadeva nel 2011, dunque con la fine anche dei processi del G8, è riesplosa la lotta Notav con l'apertura del cantiere, quello attuale, quello di Chiomonte, con le iniziative che ci furono attraverso la Libera Repubblica della Maddalena e poi il 3 luglio l'assedio alle reti del cantiere. Dunque, mentre stavamo concludendo questa fase del G8 di Genova con il decennale, eravamo sollecitati su una nuova lotta, una lotta però di territorio, che ci ha preso molto, nel senso che eravamo interessati a vedere dopo 10 anni come il movimento si era rimesso in attività, era mediaticamente all'attenzione di tutti e volevamo conoscere le persone che ne facevano parte. E dunque qualche mese dopo degli ultimi espropri con la caduta di Luca Badaltraliccio, dunque stiamo parlando del febbraio 2012, abbiamo deciso di salire e la prima persona che abbiamo conosciuto è Nicoletta della Credenza, che ci ha ospitato, e da lì abbiamo vissuto un anno intero in Val di Susa. Poi siamo ritornati successivamente negli anni e abbiamo seguito alcune persone all'interno del contesto della lotta, prima intorno alle reti del cantiere, poi successivamente intorno ai processi, insomma nel lungo percorso appassionato e anche molto pesante dal punto di vista del costo della scelta di appunto essere militanti in OTAV, che in OTAV stessi hanno dovuto pagare nel tempo. Fisicamente, ma anche a livello di riprese, che periodo avete coperto? Come dicevo, siamo saliti nel 2012 e dunque il movimento NOTAV era alla ribalta, insomma era il momento in cui da tutta Italia si saliva in valle per conoscere questa resistenza che si era riaccesa dopo anni, perché in realtà il movimento NOTAV esiste da 30 anni. Periodicamente ci sono dei momenti in cui è più visibile e quello è stato sicuramente 2012, 2013 e 2014, il periodo in cui appena terminata l'installazione delle reti al cantiere, definita l'area, i NOTAV si sono organizzati per sensibilizzare sulle ragioni del no e anche per appunto agire con l'obiettivo di fermare o comunque soprattutto creare quell'attenzione necessaria affinché se ne discutesse. Quello è stato il periodo in cui ci sono state molte azioni notturne che abbiamo seguito e a seguito di queste abbiamo seguito alcuni personaggi intorno alla costruzione del cantiere. Li abbiamo ovviamente seguiti nel loro anche percorso individuale, perché questo è un film che si sviluppa sulle ragioni per le quali gli individui scelgono con determinazione di far parte di una lotta, dunque è un racconto individuale e al tempo stesso collettivo di un movimento. E li abbiamo seguiti successivamente, dopo i primi arresti e procedimenti penali, anche all'interno delle aule del Tribunale di Torino. Dunque siamo arrivati al 2015-2016 e successivamente la lotta NOTAV ha proseguito cercando di resistere anche a questa nuova situazione che si era creata e che ha cambiato ovviamente le loro vite, cioè i processi, e abbiamo seguito alcune persone che hanno fatto delle scelte di militanza che sono andate anche oltre la Val di Susa. Ci siamo confrontati con Davide Grasso, che è un noto militante torinese che poi ha scelto di andare a combattere contro l'ISIS nel contesto del Kurdistan, della Siria del Nord. E tornato in Italia, non solo lui ma anche Eddie e anche altri NOTAV che hanno fatto la medesima esperienza, li abbiamo seguiti sia per conoscere l'esito di questa esperienza e confrontarla con quella che loro avevano fatto in precedenza in Val di Susa e a Torino, e poi per seguirli nuovamente in tribunale, perché sono stati portati a processo per la sorveglianza speciale, sono stati indicate come persone pericolose e dunque anche questa scelta successiva che hanno fatto gli è costata, soprattutto ad Eddie, la sorveglianza speciale. E abbiamo seguito Luca Ba, Nicoletta, i cattolici, cioè abbiamo scelto alcuni personaggi sino a comprendere le ragioni profonde, intime, che gli permettessero di continuare a stare nella lotta NOTAV. Cosa voglio dire? Che tutte queste persone hanno subito procedimenti, sono state condannate, quasi tutte sono state in carcere, Luca Ba, Nicoletta Dosio, e questa condizione di essere arrestati e incarcerati non li ha distolti dall'intenzione di proseguire nella lotta, e dunque questo fatto ci sembrava rilevante poterlo raccontare. Speriamo che nel film le loro ragioni risultino chiari e utili a una discussione che spero nascerà dopo la visione del film. Che distribuzione avrà? Questa è un'autoproduzione fatta da me, Stefano Barabino e Michele Ruvioli, con i quali ho condiviso la narrazione, l'esperienza e la produzione. Dunque è un film collettivo, nel senso che in tre abbiamo fatto nascere l'idea, siamo stati in Val di Susa e abbiamo sostenuto il film sino ad ora. C'è una possibilità adesso di avere una produzione che ci permetta di andare nelle sale cinematografiche, ma per il momento stiamo organizzando delle proiezioni nei luoghi di movimento, all'università, insomma nei posti dove ci inviteranno per poter far vedere questo film. Ci dai tutti i riferimenti internet? Su Facebook l'indirizzo è lascelta.docufilm e su Instagram lascelta.film. A presto! A presto, grazie a voi. Il regista Carlo Bakschmid sul suo documentario La Scelta, in streaming su OpenDDB e ZalabView da lunedì 18 settembre 2023. Con Luca Ferretti, direttore organizzativo della nona edizione del Perso Film Festival a Perugia dal 30 settembre all'8 ottobre 2023, ben trovato. Grazie Federico dell'invito, un vero piacere poter parlare con voi. Che cos'è questo festival? Perso, che è l'acronimo di Perugia Social Film Festival, è un festival internazionale di cinema documentario e anche di cinema d'autore. Ci piace dire perché insomma non ci fermiamo soltanto al documentario e al cinema del reale. Il festival iniziò nel 2004 come rassegna, soprattutto incentrata sui temi della psichiatria, perché l'ente fondatore e tuttora organizzatore gestisce un centro diurno psichiatrico e vari progetti innovativi per sviluppare l'autonomia delle persone con problemi, insomma, nei dettami di Basaglia e della miglior psichiatria italiana. E da lì in un anno già si trasformò in festival, fino ad arrivare alla configurazione di questa nona edizione, che prevede tre categorie di concorso, di cui una di film internazionali prevalentemente in anteprima italiana, una proposta di film italiani, sempre di cinema del reale, e un'altra di cortometraggi. A fianco a questo abbiamo vari eventi fuori concorso, uno dei migliori documentari della stagione, e soprattutto dei progetti di ingegneria sociale, che è la cosa che più giustifica questo social che è nel titolo. Ad esempio, come da sempre, lavoriamo nel carcere di Perugia, di Capanne, portando avanti incontri con autori ed altri eventi di formazione, o meglio di incontro, e durante il festival portiamo i cortometraggi in concorso ai detenuti con incontri con gli autori, e una giuria dei detenuti formata anche durante l'anno assegna un premio. Altri premi particolari sono quelli con le scuole, che derivano dalle collaborazioni o con l'Accademia delle Belle Arti o con delle scuole superiori di Perugia. In totale abbiamo circa 50 studenti, anch'essi che hanno seguito degli incontri, delle visioni di formazione durante l'anno e che arrivano al festival per vedere i film in concorso e assegnare un proprio premio. Quanti sono i lavori presentati e saranno presenti anche autori ed autrici? Presentiamo 56 film complessivamente. E saranno presenti molti autori, più del 50% delle proiezioni portano autori. Ne avremo anche di internazionali, questo ci piace sottolineare, abbiamo in concorso due film brasiliani di grande rilievo, anche di due autori notevoli quantomeno nell'ambito del cinema del reale, che saranno presenti in sala, Camilo Cavalcante e Bruno Giorgio. Abbiamo due autori armeni che portano un bellissimo film proprio sul loro paese, Five Dreams and a Horse. Avremo un film molto forte e interessante che si chiama Anxious in Beirut, e racconta gli ultimi 5 anni di politica e di militanza antigovernativa nella capitale libanese. Sarà presente la produttrice del film. In realtà il progetto era quello di portare l'autore e addirittura 7 membri del cast purtroppo sono stati bloccati dal visto che non gli è stato concesso dal governo, però avremo comunque la loro rappresentanza a distanza e in presenza la produttrice del film. Com'è stata la scelta artistica? Noi abbiamo un bando di concorso che ci fa pervenire centinaia di film, circa 400 nel complesso, oltre ad altri insomma che vediamo frequentando dei festival internazionali. La scelta è molto lunga, noi abbiamo un comitato di selezione o di preselezione dei film che si vede tutto ciò che viene scritto e che fa da filtro per poi passare la palla ai programmatori veri e propri, io e Giovanni Piperno che siamo co-direttori artistici e uno staff di altri 3-4 programmatori, quindi ci rivediamo quantomeno grossa parte di quello che viene e arriviamo alla definizione finale del programma. Come sarà articolato il festival rispetto ai luoghi e agli orari? Il festival coinvolge le tre sale cinematografiche del centro storico di Perugia e nei 9 giorni di svolgimento è itinerante nella programmazione cinematografica. Quindi inizieremo sabato 30 per stare per 3 giorni al nuovo cinema Méliès, in via della Viola Perugia, poi passare per 2 giorni al cinema Zenith, storico cinema di Perugia, e poi negli ultimi 4 giorni al cinema postmodernissimo. La programmazione va dal primo pomeriggio, dalle 3 circa fino alla sera, alle 11, e oltre a questi 3 cinema coinvolge vari altri luoghi della città non propriamente cinematografici, cioè il Museo Archeologico Nazionale, un luogo estremamente suggestivo e che ha una grande sala espositiva che è anche sala multimediale dove faremo delle proiezioni. Soprattutto abbiamo una sala che è una vecchia piccola cappella sconsacrata nel punto panoramico di Perugia che sarà allestita come spazio realtà virtuale, che è una delle novità anche più rilevanti di questa edizione. Presenteremo 7 titoli internazionali in realtà virtuale con 8 postazioni che il pubblico potrà vedere tutti i pomeriggi e anche la domenica mattina in questa sala. Oltre a questo abbiamo presentazione di libri nella edicola 518, altro luogo della cultura di Perugia, e coinvolgiamo un circolo universitario che si chiama Il Porco Rosso, ispirato ovviamente al grande cinema di Miyazaki, dove svolgeremo domenica una masterclass con Alessia Brandoni, Armando Adria e Fabrizio Croce sulle pratiche d'archivio nel cinema contemporaneo. E inoltre un altro spazio verrà inaugurato giovedì, che è Indigo Art Gallery, una piccola galleria di Perugia, dove presenteremo una mostra di fotografie di Cecilia Mandini, la grande documentarista italiana da poco scomparsa, dove esponiamo le sue fotografie di Pierpaolo Pasolini, soprattutto nel periodo in cui hanno collaborato. La mostra si chiama Pierpaolo Pasolini, 7 scatti, volti del XX secolo. Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Il nostro sito www.persofilmfestival.it. Nona edizione del Perso Film Festival a Perugia dal 30 settembre all'8 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore organizzativo Luca Ferretti. A presto! Grazie, grazie a voi e ci vediamo a Perugia. Con Catello Masullo, direttore artistico della 19ª edizione del Premio Cinema Giovane e Festival delle Opere Prime, a Roma dal 2 al 4 ottobre 2023, ben trovato. Bene, grazie, grazie dell'ospitalità. Cos'è questo premio? È il primo storicamente festival di cinema strutturato dedicato esclusivamente alle opere di esordio del cinema italiano, quindi alle opere prime. Siamo stati i primi, lo rivendichiamo, naturalmente ci sono state poi in seguito tante altre manifestazioni che più o meno possono contribuire alla diffusione della cultura cinematografica, in particolare quella proprio del cinema degli esordi, che è un settore molto particolare e molto molto vivace in Italia, perché dal nostro osservatorio molto particolare, mentre all'inizio di questa manifestazione noi andavamo a visionare 20-25 opere prime all'anno, poi queste sono cresciute in maniera importantissima nell'arco di questi 20 anni fino a sfiorare ormai le 70 opere prime all'anno. Quindi un cinema tutt'altro che in crisi, anzi in piena salute, con anche un grande miglioramento della qualità generale cinematografica. Il nostro cinema degli esordi è molto vitale ed è molto veramente di altissima qualità. L'edizione 2023 quanti titoli comprende? 10 titoli, come ormai è tradizione del nostro festival. La nostra giuria, che è una giuria piuttosto prestigiosa, composta da personaggi del cinema di fama anche internazionale, vede le opere prime che sono distribuite regolarmente in sala, opere prime di finzione, lungometraggi di finzione, nell'anno solare che precede il festival, e ne sceglie 10. Di queste 10, 3 vengono definite in concorso, nel senso che concorrono al primo premio, che è un premio dato dal pubblico, che è il premio Cinema Giovane propriamente detto, e concorrono anche al premio per opera preferita degli studenti. Questi 3 film vengono proposti agli studenti in matinée, nelle 3 mattinate del festival. Gli studenti che sono stati preparati durante tutto un anno scolastico per una sorta di alternanza scuola-lavoro di avvio alla professione del critico cinematografico sono preparati per vedere il film, per fare delle domande ai registi, agli artisti, agli attori che intervengono, e dentro la giornata scrivono la loro recensione, che viene inviata entro le 8 di sera, una giuria deciderà poi chi sarà a vincere il premio per la migliore recensione degli studenti, che verrà premiato nella sera della premiazione, che è mercoledì 4 ottobre, insieme con il miglior film, il miglior attore, miglior attrice, miglior regista, il miglior direttore della fotografia, il miglior produttore e così via, perché il nostro festival distribuisce una ventina di premi, non solo ai film migliori, ma anche a tutti i mestieri del cinema, che crediamo che sia assolutamente da valorizzare. Ci saranno autori ed autrici ad accompagnare le loro opere? Sempre, questa è la caratteristica principale del nostro festival, che ha acquisito nel tempo una sempre maggiore autorevolezza. Tutti i registi, ma spesso anche attori, attrici e naturalmente artisti, talent dei film, accompagnano sempre i loro film, sia nell'incontro con gli studenti la mattina, sia poi negli incontri che facciamo il pomeriggio con il pubblico cinefilo degli adulti, che è il pubblico soprattutto del Cinecircolo Romano, che è arrivato alla 59esima anno consecutivo di diffusione della cultura cinematografica, e naturalmente anche per tutti gli interessati, perché si tratta di un festival a ingresso libero fino ad esaurimento posti, perché la missione del Cinecircolo Romano è proprio quella della diffusione della cultura cinematografica. Quindi tutti gli interessati vengono al Cinema Caravaggio e quindi siete tutti invitati. Come sono strutturate le giornate? La mattina, come ti dicevo, facciamo le proiezioni quindi riservate agli studenti. Poi il pomeriggio cominciamo lunedì alle ore 15, negli altri due giorni alle ore 16, e abbiamo tutti i 10 film che verranno proiettati nei pomeriggi. A seguire ogni film c'è l'incontro con il regista. Abbiamo film di grandissima levatura come Settembre di Julia Stegersgaard, Il Legionario di Lev Papù e una film di Francesco Cottabile, che sono i tre film in concorso che si vedono anche la mattina. E poi abbiamo Piano Piano di Nicola Posetore, Amanda di Carolina Cavalli, Piccolo Corto di Laura Tamani, Un Mondo in Più di Luigi Pane, Io Sono Viera di Benemino Tepina, Marcel di Jasmine Triga, grandissima attrice, che è stata peraltro premiata come migliore attrice nel lontano 2010 del nostro festival, e che esordisce dietro la macchina andata, e finiamo con Cosa Nostra di Giovanni Dota. Sono tutti film, mi piace sottolinearlo, che hanno già avuto grandissimi riconoscimenti, perché molto spesso il programma del Premio Cinema Giovane Festival dell'Opera Prime, che noi come Cinecittolo Romano stabiliamo nel mese di marzo, quasi sempre anticipa i grandi premi del cinema italiano, quindi Davide Donatello, naturalmente i Nastri d'Argento, che vengono successivamente presi noti, e quindi per esempio quasi tutti i nostri registi sono stati sempre o hanno conseguito il premio come miglior regista esordiente, o ai Davide Donatello o ai Nastri d'Argento, oppure sono stati candidati, quindi hanno avuto la nomination. Questo ci fa molto piacere, perché evidentemente in qualche modo ci conforta dal fatto che comunque i nostri giudizi, la nostra selezione è sempre di altissima qualità. Tutti i riferimenti web per il programma? Cinecircolo Romano, oppure Premio Cinema Giovane e Festival delle Opere Prime. Un'altra delle caratteristiche è che noi siamo molto puntuali nell'inizio e nella fine delle proiezioni di tutte le nostre attività. 19esima edizione del Premio Cinema Giovane Festival delle Opere Prime a Roma, Cinema Caravaggio, dal 2 al 4 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Catello Masullo. A presto! Grazie, grazie a voi, evviva, evviva il cinema! Con Simonetta Lombardo, ideatrice e direttrice artistica di Cinema in Verde all'Orto Botanico, dal 28 settembre al 1 ottobre 2023, ben trovata. Grazie, buongiorno a tutti quanti, cominciare da te Federico. Di cosa si tratta? È un festival che mette in concorso 6 pellicole che trattano di temi ambientali. in maniera molto diversa l'una dalle altre. Si tratta di film che vengono da vari paesi del mondo, rappresentative di diverse culture, diversi modi anche di sentire il tema della crisi dell'ambiente, della conversione ecologica. Sono 6 pellicole in concorso che verranno proiettate sera nell'arena all'aperto dell'Orto Botanico, a ingresso libero peraltro. Oltre a questo, in questi 3 pomeriggi ci sarà anche una rassegna di film che sono stati già proiettati nelle sale, e la mattina invece ci sono dei workshop su come fare un documentario di tipo ambientale con giornalisti, filmmaker, eccetera eccetera. E poi ci saranno dibattiti, chiacchiere. Si parla del come l'industria cinematografica sta cambiando i propri aspetti produttivi per sprecare di meno, per impiegare meno energia, per impiegare meno materie e via dicendo. Un altro invece proprio su come parlare di ambiente senza essere, come dire, pedagogici, insomma. E ne parliamo anche con Dirzi, il cui film avremo presentato qualche minuto prima, Siccità, il film che ha fatto, in una Roma dove non piove da anni e dove il Tevere è totalmente secco. E l'ultimo giorno invece sarà proprio la premiazione del film in concorso, tra la mattina del 1 ottobre, e ci sarà anche la proiezione del film che ha vinto il concorso. Insomma, è un evento articolato, puntando specificamente sui film, cioè sulla narrazione, sulle storie ambientali e non sui documentari, perché ci sono molti importanti festival di cinema ambientale che sono in buona parte sul documentario, ed è il primo che si fa a Roma. Quindi queste 3 cose ci fanno sperare che ci sia interesse. Com'era partito il progetto? È partito come, direi, una follia comune, così. È partito da noi, che siamo un'agenzia di comunicazione che è nata per occuparsi di ambiente e ha lavorato e lavora per associazioni, organizzazioni internazionali, istituzioni, ma anche imprese che hanno la volontà di diventare meno pesanti sul pianeta, e dall'Orto Botanico, ovvero sia dalla Sapienza, dall'università. Cioè l'università si apre a discorsi che si contaminano, no? Ovvero sia, non c'è solo scienza, la scienza ci ha spiegato quello che sta succedendo, quello che succederà, ma quello che probabilmente muove le coscienze, muove il cambiamento più fortemente sono le storie. Faremo durante il festival un piccolo excursus di quelli che sono stati i film che già hanno creato un piccolo scalino di consapevolezza in più su quanto questo tema sia importante. Io pensavo per esempio a un film hollywoodiano con suoi limiti, ma comunque che ha colpito molto la fantasia e credo anche appunto la consapevolezza delle persone, che è The Day After Tomorrow, il 2004. 2 anni dopo l'IPCC, cioè il gruppo di scienziati, di ricercatori messo insieme dalle Nazioni Unite per verificare, studiare il cambiamento climatico, prende il Nobel per la pace. Ora, non c'è una causa-effetto, però effettivamente era il primo momento probabilmente in cui questa consapevolezza che il cambiamento climatico è qualcosa che stiamo già vivendo, e lo vediamo tutti i giorni, direi, e questo ce lo dice la scienza, ma ce lo dice anche l'esperienza, e questa consapevolezza, ecco, cominciava ad esistere, la consapevolezza che il cambiamento climatico c'era e impattava sulle nostre vite. E quindi in quell'atmosfera cambiata esce fuori anche un film super hollywoodiano, super sostenuto dalle grandi case di produzione, eccetera eccetera, e contemporaneamente quello che gli intellettuali chiamano il mainstream, cioè le cose che un po' tutti pensiamo, cambia, cioè cambia il vento. E questa enorme difficoltà, perché oggi come oggi il tema del cambiamento climatico è ancora falsamente oggetto di discussioni, perché appunto è fuori di discussione, ma c'è qualcuno a cui conviene che rimanga discusso, scusate il giro di parole. Il cambiamento climatico è un dato di fatto, e in qualche modo le storie del cinema hanno contribuito a farlo comprendere a tutti noi. È cambiato il vento del dire no, non esiste, non è determinato dall'uomo. Giovedì 28 settembre abbiamo la mattina il workshop sul documentario Come arte del reale, ci sarà Stefano Liberti. Nel pomeriggio c'è l'inaugurazione del vero e proprio concorso. Prima, alle 15, ci sarà stato questo film che si chiama Mondo Cane, che è un film di Alessandro Celli, un futuro terribile a Taranto, presentato da Marco Gisotti e da Alessandro Celli stesso. La sera, presentato da Pippo Nufio, direttore di Greenpeace, e dal regista Piergio Rivecce, il primo film in concorso, che è Green Tide, un film succede su una storia di alghe verdi, di marea verde tossica sulle coste della Bretagna, e alle 22 invece il film The Dam, che è un film sudanese con la storia di un operaio che lavora sulle rive di una grande diga. Venerdì il workshop mattina vedrà Angelo Loi, che presenta Tropico del Caos, sempre insieme a Valeria Di Lardi, che è la persona che ha messo insieme tutta la parte documentari. Nel pomeriggio alle 16 Un mondo fragile, film colombiano, che viene presentato da Barbara Nappini, di Slow Food, sempre assieme a Marco Gisotti. Un dialogo sulla biodiversità con FAO, Slow Food, Federbio e WWF e vari altri, anche Riccardo dell'Università della Tuscia. La sera L'Horizon, o The Horizon, che è un film francese, in cui il dialogo viene moderato da Antonio Cianciullo della Huffington Post con una rappresentante di Ultima Generazione e la regista del film. Alle 22, And the Birds Rain Down, che è un film canadese, di cui appunto parlano Riccardo Valentini dell'Università della Tuscia e Danilo Monticone della FAO. Sabato 30, un workshop sul documentario, ci sarà Lorenzo Conte che racconta Il tempo dei giganti, ma un documentario sulla xylella. Nel pomeriggio, primo talk Roma Set Sostenibile con Lorenzo Vecchi del 2030, è la struttura che aiuta i set a essere più sostenibili e compatibili, aiutando anche il Festival Cinema Verde a fare la stessa cosa. Più registi e giornalisti, tra cui Marco Gisotti e Renzo Carbonera, regista del film che viene presentato successivamente. Alle 16 c'è Siccità di Virzì nell'Aranciera, quindi insomma nello spazio chiuso dell'Orto Botanico di Roma, e subito dopo un dialogo tra Paolo Virzì, Sabrina Alfonsi, Daniela De Leo, la protettrice del Public Engagement della Sapienza, l'ambientalista Giulio Conte e Bruno Arpaia, che è uno scrittore che ha scritto di ambiente. E la sera la presentazione del film in concorso, che sarà Pluto di Renzo Carbonera con Andrea Pennacchi, e ci sarà probabilmente Pennacchi che discute con noi del film. Alle 22 Beating Sun, che è un film francese, anche quello su un'area verde che si vuole salvare dalla speculazione in Francia. La mattina successiva, domenica 1 ottobre, alle 10 si riunisce la giuria, che è presieduta da Laura Degli Colli, che è la presidente del Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici, da Claudia Campanelli, che è la nostra propria direttrice artistica, insomma, che ha donato i film, Andrea Grieco, che è un attivista e anche un membro del Green Influencer Club, Rossella Muroni, ecologista, ex presidente di Legambiente e presidente di Nuove Rigenerazioni, e Toni, che è Federica Cagliozzo, che è un'attrice e cantautrice. Ci sarà poi alle 11 la consegna del premio, e a consegnare il premio sarà Claudia Gerini, e poi alle 11.45 c'è la proiezione del vincitore. I riferimenti web per i dettagli del programma? www.cinemainverde.it per prenotare il proprio posto, perché è necessario prenotarsi, si può appunto andare sul sito. Prima edizione del Festival Cinema in Verde all'Orto Botanico a Roma, Orto Botanico, dal 28 settembre al 1 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento all'ideatrice e direttrice artistica Simonetta Lombardo. A presto! Grazie, a presto! Con Alberto Valtellina, co-regista del film La strada infinita, al cinema da martedì 3 ottobre 2023, ben trovato. Buona giornata Federico, grazie per avermi contattato. Ci racconti quest'opera? Questo lavoro nasce principalmente perché avevo voglia di fare un film a chilometri 1.5 invece che chilometri 0. Penso che si possano fare dei lavori interessanti e si possano approfondire dei temi senza spostarsi troppo da casa. Io sto alimentando un film sotto casa dove cerco di coinvolgere la lattaia e il venditore di mode improbabili. Questo film l'ho girato in una strada che, come tutte le strade penso del mondo, hanno una periferia, che non è bello chiamare periferia. Il mio co-regista architetto mi disprezzerebbe per essermi espresso in questi termini. La strada parte dal centro della città e va verso est, e su questa strada abbiamo scelto di raccontare quelle che Foucault chiamava eterotopie, quindi questi mondi chiusi quindi l'ex ospedale psichiatrico, il cimitero, una scuola, un albergo che è nato e è subito morto, un mobilificio che oggi è stato completamente diviso in diverse parti commerciali, il mercato ortofrutticolo. Abbiamo trovato in Evaristo Cariego di Jorge Luis Borges una parte di racconto che racconta esattamente la stessa cosa su Buenos Aires, quindi tutto sommato fare un film nella parte est di Bergamo, fare un film a Buenos Aires è più o meno la stessa cosa, con la differenza che non devo fare 15 ore di aereo. Jorge Luis Borges dice: ho spinto il lettore a immaginare quel vasto recinto di monti molto isolati, e per quanto i recinti per il bestiame scomparissero nel 70, la configurazione tipica della località, tuttora cosparsa di grandi costruzioni, il cimitero, l'ospedale di Batavia, le carceri, il mercato, le scuderie municipali, il lavatoio di lani, la birreria. Anche noi avevamo una birreria, ma l'hanno distrutta prima, siamo rimasti circondata dalla miseria di tanti destini mutilati. È esattamente una sintesi del nostro film, che l'ha trovata mio figlio leggendo Evaristo Cariego, dopo che il film era finito. Quindi la usiamo come lancio. Qual è stata la spinta principale per realizzarlo? Con Paolo avevamo realizzato due film, uno Il condominio inclinato nel 2020, che aveva avuto questa formidabile uscita dal 29 di settembre al 23 di ottobre, quando hanno richiuso i cinema, però avevamo avuto una media copie probabilmente la più alta d'Italia, anche perché avevamo ripreso questo condominio costruito in maniera particolare alla fine degli anni 70, dove abitano 1400 persone, e l'idea era quella di portarci al cinema almeno 1200 persone. Comunque ci siamo quasi arrivati, perché abbiamo fatto 3 o 4 sold out in un cinema da 450 posti, quindi più o meno eravamo arrivati a coprire la nostra prima parte di pubblico. Poi hanno chiuso il cinema e ce ne siamo già dimenticati che era successa questa cosa. Che percorso distributivo avete intrapreso? Il famoso percorso distributivo in salita, come sempre. Io distribuisco da solo i miei film, poi collaboro con altre distribuzioni, anzi poi ti darò una dritta interessante fuori onda, e sto cercando di far girare questo film. Mi rendo conto che un film girato nella periferia di Bergamo, non essendo Roma Nord, avrà delle grosse difficoltà a entrare nel cinema, però intanto cominciamo da vicino in questa rassegna che si tiene al Cinema Concaverde, si chiama Open Your Eyes, Cinema, Ambiente e Sostenibilità. Questo mi piace, che si sia capito che il tema di fondo del film è quello della sostenibilità, e non banalmente, ma in realtà a un certo punto si dice che Bergamo è una città d'acque, e lo abbiamo scoperto, io ho 62 anni, Bergamo è una città d'acque, e muovendomi mi sono accorto che tutto il centro di Bergamo è costruito su una rete di rogge. Sono i collegamenti tra il fiume Serio, che sta a est di Bergamo, e il fiume Brembo, che sta a ovest di Bergamo. Ci sono questi collegamenti, e su queste rogge all'inizio del Novecento le fabbriche da queste rogge traevano energia, quella che oggi si ottiene dal carbone, dal petrolio. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Il mio sito è albertovaltellina.it. Poi se c'è qualche appassionato cinefilo che vuole coinvolgere qualche cinema, secondo me è un film che ha comunque, come tutti quelli che realizzo, un fondo di cinefilia che lo rende interessante, anche indipendentemente dal contenuto tutto sommato. Io sono uno strobiano, quindi i contenutisti ci fanno orrore. Il documentario La strada infinita al cinema da martedì 3 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento al coregista Alberto Valtellina. A presto! Grazie, grazie a te, a presto, buon lavoro. Il regista Massimiliano Pacifico sul suo film Gelsomina Verde, in proiezione a Roma alla Sala Cinema Antonio Cerone, mercoledì 3 ottobre 2023. Ben trovato. Buonasera, grazie per questa opportunità. Cosa racconta questo film? Definirlo docufilm è anche riduttivo in un certo senso, perché è un film che abbiamo costruito lavorando su diversi livelli di narrazione e cinematografici, perché abbiamo raccontato la storia di una vittima innocente di camorra, Gelsomina Verde, una storia atroce, anche forse una delle più note nell'ambito della cronaca nera legata alla faida di Scampia, perché è una ragazza che 17 anni fa fu uccisa nella sua automobile da un gruppo di persone che lei conosceva bene, che l'hanno torturata per estorcerle un'informazione, poi l'hanno sparata in testa e poi hanno dato fuoco alla sua macchina e a lei per poter nascondere le tracce. La storia poi è ulteriormente dura perché inizialmente c'è stato un po' di diffamazione da parte dell'opinione pubblica, perché si credeva che lei forse era collegata a fatti di criminalità, mentre invece quello che hanno cercato da lei era un'informazione che non aveva e che comunque non avrebbe voluto condividere circa un ragazzo che era passato a un altro clan. Per cui il film vuole raccontare non solo questa vicenda, ma anche quello che poi ha coinvolto la famiglia negli anni successivi, perché c'è una molto controversa e molto criticata faccenda di un risarcimento che la famiglia ha accettato dal boss del clan, appunto, di Lauro, in condizioni assolutamente dure e difficili si sono trovati ad accettare questo indennizzo, che comunque voglio ricordare è avvenuto in maniera del tutto trasparente attraverso un avvocato, ed era un indennizzo che questa persona aveva ricevuto per un premio assicurativo per un incidente, e quindi la famiglia è stata duramente criticata dall'opinione pubblica. Ma il film vuole proprio anche mettere alla luce il perché una famiglia, in questo caso la famiglia Verde, ma una qualsiasi famiglia costretta in queste condizioni, si trova ad accettare il denaro e si trovi in una situazione così difficile, perché appunto lo Stato, a mio parere, non tutela abbastanza i cittadini in questo senso. C'è un'assurda legge per cui esiste un fondo dedicato alle famiglie delle vittime innocenti, ma questo fondo viene negato alle famiglie che hanno anche fino al quarto grado di parentela un legame con qualcuno coinvolto in criminalità organizzata, viene negato il risarcimento. Quindi questo era il caso della famiglia Verde, che aveva un lontanissimo parente che aveva commesso dei crimini e quindi gli sarebbe stato negato un risarcimento, che è un risarcimento, ricordiamo, che non è un premio, non è una cosa che si dà per compensare la perdita di una vita, bensì è una cosa fondamentale per avere un supporto psicologico, economico e proprio anche per potersi allontanare da un certo contesto sociale. Il film vuole mettere alla luce tutte queste dinamiche, ma lo fa allontanandosi dai cliché, dalle idee, diciamo, di un certo tipo di cinema che racconta benissimo anche la camorra, la criminalità attraverso appunto la ricostruzione dei fatti, bensì lo abbiamo trasposto, questa è un'idea che ho condiviso sin dall'inizio col produttore Gianluca Arcopinto, l'abbiamo trasposto in un luogo neutrale, asettico, come il teatro. Per cui il film racconta di un drammaturgo vero, un bravissimo drammaturgo napoletano, Davide Iodice, che insieme a un gruppo di attori cerca di mettere in scena questa vicenda, destrutturandola. Non c'è una cronologia precisa, si raccontano vari momenti, questo del risarcimento è uno, ma anche tante altre situazioni molto complesse, in un luogo asettico come appunto è il teatro, che è astratto e che permette agli attori di tirare fuori delle vere emozioni circa quanto narrato. Aggiungo l'ultima cosa, che il film, appunto, perciò dicevo all'inizio, è un ibrido, perché ci sono elementi legati al documentario con delle vere immagini di repertorio. C'è la presenza del fratello della vittima, Francesco Verde, che è un attore ma che ha partecipato in qualità di se stesso con due scene molto forti e vere, e poi ci sono appunto questi elementi di narrazione del teatro, però dove gli attori lavorano con l'improvvisazione, quindi non c'è una scrittura ben precisa, ma hanno lavorato improvvisando e tirando fuori quello che sentivano. E quindi è un film molto complesso in questo senso, e spero possa arrivare al pubblico per la sua complessità, ma soprattutto per rendere onore alla memoria di Gelsomina. Come era partito il progetto? Tanti anni fa anche questo, perché appunto nel 2013 ho la fortuna di incontrare Gianluca Arcopinto in quanto lavorava alla serie Gomorra, alla prima parte della prima stagione, in quanto organizzatore e produttore esecutivo, e nei suoi contatti con il territorio necessari affinché una serie del genere potesse essere sviluppata in un territorio complesso come quello di Scampia, lui ha colto subito che c'era una umanità da approfondire, c'era un disagio da raccontare, da cercare di assolvere o comunque aiutarli. Ed è entrato in grande relazione con il Comitato Vele, con altre associazioni del territorio e soprattutto con Francesco Verde, che è un esponente anche appunto sul territorio con un'associazione, e quindi si è sentito poi anche successivamente, grazie anche a Sky, bisogna dire che tutto questo è nato perché Sky ha finanziato 5 cortometraggi da proiettare prima di Gomorra la serie in TV, su Sky appunto, e uno di questi 5 cortometraggi lo abbiamo fatto con il collettivo Mina in onore appunto di Gelsomina Verde. Lo abbiamo fatto sulla sua vicenda, anche lì però trasponendolo a un luogo come una sala audizione. In quel caso erano degli attori che andavano a fare il provino per un attore e recitavano dei monologhi. E quindi praticamente da quel cortometraggio poi il progetto è andato avanti. Gianluca ha trovato le risorse, come lui solo sa fare, in maniera politica molto distanti dall'iter commerciale solito per produrre un film, per cui questo è un film che è sostenuto dalla Rai in collaborazione con altri due partner che sono Lama Film e Bartley Bay, e abbiamo tirato su il budget per fare questo piccolo film girato in 2 settimane in una vera residenza teatrale nelle Marche. Il film poi ha avuto una lunga gestazione anche successivamente alla sua realizzazione, perché è stato presentato al Festival di Pesaro nel 2019, però chiaramente poi colpiti dalla pandemia volevamo uscire a novembre in onore della, purtroppo, della ricorrenza della morte di Gelso Minaverde, non è stato possibile, e poi adesso appunto siamo usciti su questa piattaforma, che è una piattaforma più piccola forse, ma molto autoriale, molto bella, perché messa su da alcuni dei cinema più importanti autoriali in Italia, come per esempio il Beltrade a Milano, il super modernissimo a Perugia e tanti altri, e che hanno messo su questa piattaforma per accompagnare i film che loro proiettano nelle loro sale. E quindi 1895 in onore anche della prima proiezione pubblica di Lumière in Francia. A risentirci presto. Grazie mille. Il regista Massimiliano Pacifico sul suo film Gelsomina Verde, in proiezione a Roma alla Sala Cinema Antonio Cerone, mercoledì 3 ottobre 2023. Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per saperne di più sulle novità del mese sulla piattaforma. Ciao Paco, ben trovato. Ciao, buongiorno a tutti e tutti. Con settembre tornano le consuete programmazioni e attività di OpenDDB, sia per quanto riguarda l'attività sulla piattaforma, quindi che tocca sia le editorie che produzioni cinematografiche indipendenti, ma anche l'attività e la distribuzione nei territori, nelle comunità, nelle sale cinematografiche, negli spazi sociali. Partiamo con due notizie importanti che riguardano la produzione SMK Factory, che è la nostra casa di produzione, che quest'anno è pronta ad uscire con ben 2 film. Il primo è Caretaker in cerca di cura, di Teresa Sala, scritto con attività Francesca Vaccaro. È un film che abbiamo appunto lavorato in questi ultimi 2 anni, ha avuto anche ovviamente una campagna di coproduzione popolare, e che ha come perno centrale del racconto e come tema centrale, come si intuisce già dal titolo, il concetto di cura in tutte le sue declinazioni, attraverso la storia di alcune delle protagoniste, che sono queste signore tra i 70 e gli 80 anni. Si apre tutto un ragionamento che è estremamente attuale, ma paradossalmente pochissimo trattato, soprattutto nel cinema e anche in quello indipendente, del concetto di cura, non cura solo dal punto di vista fisico ma anche psicologico, e soprattutto legato anche a quello che è una parte della propria vita, che è la parte appunto che comincia con i 70 anni, a cui oggi secondo noi si tocca ancora troppo poco le corde di quel tema. Ti faccio solo un esempio: il film appunto ha avuto adesso le prime festival, tra cui il Festival Disability di Torino 2 settimane fa, ma abbiamo fatto anche delle iniziative pubbliche durante la raccolta fondi. Siamo rimasti impressionati non solo dall'altissima partecipazione a queste iniziative, ma anche dai lunghissimi dibattiti che si creavano subito dopo le proiezioni o le presentazioni. Questo è un segnale estremamente sintomatico. Noi abbiamo toccato con drammatica urgenza il concetto di cura durante la pandemia, ce lo siamo anche velocemente archiviati e dimenticato, ma la cura significa tante cose, significa diritto alla salute, ma anche diritto a una vita dignitosa fino alla fine, al di là di come sia questa fine. La cosa molto potente è che attraverso il racconto e la testimonianza di queste protagoniste si va anche a smuovere delle domande che sono delle domande chiave in una società che banalmente ha sempre meno la propensione a basarsi su modelli familiari che ormai sono in qualche maniera anche obsoleti, se vogliamo, comunque che non rispondono più alla società contemporanea. Nella collettività si trovano nuove strade e nuove modalità anche per un nuovo modo di immaginare il concetto stesso di cura. E da questo punto di vista è molto bello che il racconto venga affrontato attraverso le loro dirette testimonianze, perché direttamente queste persone, poi ovviamente il loro racconto si intreccia anche a tanti altri aspetti. La domanda chiave è proprio quella: c'è oggi un modo nuovo che va completamente ripensato per prendersi cura di se stessi e per farlo in una modalità collettiva? Questa è la domanda che si pongono queste persone e alla quale il film non dà delle risposte ma apre degli scenari in qualche maniera, e che poi è bello vedere che questi scenari si costruiscono insieme alle persone che poi in sala vedono il film. Il film uscirà ufficialmente nei cinema dal 9 ottobre, avremo diverse anteprime in diverse città come appunto Milano, Bologna, Brescia, Roma, Torino, insomma le città dove solitamente ci muoviamo nelle sale, non solo, e inizierà il suo lungo percorso. Sul sito del film vi consiglio di appunto cercare su OpenDV la pagina Care Speakers in cerca di cura, trovate tutte le informazioni e anche soprattutto la possibilità di aiutarci a portare il film nel proprio territorio, nella propria comunità. È una cosa per noi sempre molto importante. L'altra grande novità sul quale faremo un annuncio nelle prossime settimane è l'uscita di Kissing Gorbachev. Kissing Gorbachev è ancora in coproduzione popolare fino a questa domenica, poi si chiuderà ufficialmente il crowdfunding e andrà poi appunto a essere pianificato in percorso di lancio prima festivaliero e poi nelle sale cinematografiche che annunceremo a breve. Il film è quasi pronto, siamo molto contenti e anche e soprattutto di essere riusciti a raccontare questa storia in un modo molto particolare. All'interno del racconto tocca anche l'incredibile tour in Unione Sovietica dell'89 di Cicipite della Linea, e che ovviamente si lega anche a tutto l'elenco di iniziative che ci saranno per i 40 anni dei CCP, tra cui la mostra, l'iniziativa al Teatro Valli di Reggio Emilia e tanto altro. Arrivando invece alla programmazione classica di OpenDV, abbiamo ripreso le acquisizioni come rifacciamo poi da settembre in avanti. Abbiamo sicuramente due film di punta molto importanti, che sono due film apparentemente su tematiche diverse, ma che in realtà si intrecciano sempre nella dannosa questione tra impatto dell'economia capitalistica sui territori e lotte territoriali. Uno è La Scelta, che tocca il tema legato a tutte le storie di questi ormai 25 anni del movimento No TAV, ed è una co-distribuzione che facciamo a quattro mani assieme a Zalab. E l'altro è Chemical Bros, che è ambientato in Sardegna e che invece va a toccare, partendo dal tema delle miniere di Tullius in Sardegna, in qualche maniera un film molto importante perché mostra con i fatti quanto l'economia sia davvero a un livello transnazionale molto complesso ormai, per cui cerca anche di mostrare non solo una specifica storia di un territorio specifico come quello sardo e l'impatto che l'industria chimica sta avendo e ha avuto in passato, ma anche come questo impatto in realtà è drammaticamente simile all'impatto che ha in altre zone del mondo, del primo, del secondo o del terzo mondo, come ahimè si usa ancora dire, anche se sono categorie obsolete. Ed è un film della regia di Massimiliano Mattotta. E sulla sponda di questo segnalo ancora due cose che sono innanzitutto Pluto con Andrea Pennacchi, diretto Carbonera, che da diversi mesi abbiamo aiutato a diffondere nelle sale, adesso sarà in anteprima streaming sul nostro catalogo. E segnalo anche Princesa, che invece è un film di cinema sperimentale della Caucaso Factory. La Caucaso Factory è una realtà bolognese estremamente interessante che da molti anni produce film de sé e sperimentali, ma dove ha sempre una chiave di lettura documentaristica, ed è anche uno dei motivi per cui ci piace molto la produzione che fanno. In questo caso specifico c'è di traverso il tema delle migrazioni contemporanee, ma appunto potete vedere il film Princesa assieme anche a tutto il resto dei film prodotti della Caucaso Factory sul nostro catalogo www.opendv.it. Ciao Paco, alla prossima! A presto, grazie! Con Albert Bucci, direttore artistico dell'ottava edizione del Soundscreen Film Festival. A Ravenna, Cinema Mariani, dal 25 settembre al 1 ottobre 2023, ben trovato. Grazie a te, ben trovato, grazie a tutti i radioascoltatori. Raccontiamo cos'è. Soundscreen è un festival di cinema in cui il nostro interesse è focalizzato sul rapporto tra suono, musica e immagine. Potremmo dire sì, per lo più cinema e musica, ma a noi interessa anche tutto il rapporto su quello che è il rapporto appunto del sonoro, dell'audiovisivo. Sa che si dice audiovisivo proprio perché il cinema è fatto di immagini, che sono quelle su cui ci concentriamo di più, ma anche di una forte interazione con l'aspetto sonoro, che può essere in partenza musicale, ma non solo. L'edizione di quest'anno come si caratterizza? Secondo le nostre linee guida, che sono quelle di presentare un concorso internazionale per lungometraggi,